Sì, Collateral è un festival che va avanti da 12 anni a questa parte, in Regione Emilia-Romagna, promosso dall'Arci Emiliano-Romagnola e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. È un festival che cerca di costringere, tra virgolette, i musicisti a non fare quello che solitamente fanno, ovvero quello che normalmente si trova, quindi cerca di metterne assieme dei diversi che magari, come dire, possono collaborare su linguaggi differenti, dal cinema alla musica, dalla parola alla musica, alla parte visuale. Per questo quest'anno abbiamo scelto due progetti in particolare. Uno che si chiama Soundtracks e che mette assieme una serie di musicisti che sonorizzeranno delle pellicole del cinema muto, musicisti che non sono sempre gli stessi, che nella formazione variano, e un altro che è invece capitanato da Murubutu, che è un rapper emiliano romagnolo che assieme a un visual artist Spetti Rosso e assieme a una fisarmonica metterà in scena uno spettacolo. Sono 6 date su tutto quanto il territorio emiliano romagnolo all'interno di circoli Arci e spazi fruibili dai più. L'idea che sta alla base del Il tema di quest'anno è quello dell'identità dal mondo e quindi il linguaggio identitario della musica, che appunto, toccando anche altri linguaggi, il visuale, sia dell'immagine di movimento sia dell'illustrazione, cerca un po' di offrire degli sguardi in più alle persone che verranno a seguirlo. Quale ruolo ha la musica nella vita culturale, nel pensiero politico del territorio e come amplia appunto la platea delle persone che hanno accesso alla vita culturale stessa? La musica ha un ruolo centrale, nel senso che è qualcosa che ancora oggi tiene assieme le persone. Ci sono dei segnali un po' contrastanti ultimamente, nel senso che la musica è particolarmente fruita oggi su tutti quanti i device, attraverso Spotify, attraverso la televisione, e difficilmente, e sempre più difficilmente, come dire, trova riscontro nell'esecuzione dal vivo, a meno che questa non sia particolarmente premasticata. Lo spazio che noi cerchiamo un po' di ritagliare, quindi di mettendo anche assieme dei linguaggi, è creare curiosità e quindi attrarre persone che magari appunto la fruiscono normalmente ma non escono di casa per andare a sentire un concerto. Quindi la particolarità di Collateral, quindi, di avere dei progetti che altrimenti non si trovano, dovrebbe ha come scopo anche quello dell'allargamento di una platea di persone che si possano abituare a seguire dei concerti di musica dal vivo. Quali sono gli appuntamenti di Collateral di quest'anno? Sono, appunto, dicevo, 6. Il primo tra tutti è quello del 12 di novembre, cioè domenica prossima, presso il Mercato Sonato di Bologna, con Soundtracks, con Corrado Nuccini, Stefano Pilia e Massimo Pupillo. Ne seguiranno altri 2, uno a Ferrara alla Sala Estense e un altro a Riccione allo spazio Tondelli, mentre le altre 3 date, cioè quelle di Murubutu, Roby Passerotto e Emanuele Reverberi, saranno effettivamente a Reggio Emilia presso il Circolo Arci Tunnel, Modena presso il Circolo Arci Off e a Gambettola di Forlì Cesena presso il Circolo Arci 360. Tutto il programma si trova su Facebook e sul sito arcir.it.